ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Un vecchio troll. Il secondo inverno che la ragazzina di Scrolica era lontana da casa, verso la fine di gennaio, faceva proprio un freddo atroce. Il gelo era tale che si doveva ammucchiare la neve intorno alle casupole delle Askedalar per cercare di mantenere il calore all'interno. E tutte le sere bisognava coprire le mucche con la paglia per paura che morissero assiderate. Faceva tanto freddo che gelava il pane e gelava il formaggio, e persino il burro si trasformava in un blocco di ghiaccio. Quando il gelo era al peggio, sembrava che nemmeno il fuoco stesso fosse più in grado di scaldarsi come al solito. Per quanta legna si mettesse nel camino, il calore non voleva diffondersi più in là dell'orlo del focolare. Un giorno in cui il freddo era rigido e sofferto, Jan di Scrolica non andò al lavoro, ma rimase in casa e aiutò Katrin a mantenere vivo il fuoco. Fin dal mattino né lui né la moglie si erano azzardati fuori della porta, e più stavano seduti lì dentro, più gelavano. Quando cominciò a far buio, presso a poco verso le 5, Katrina disse che potevano anche andare a letto. A cosa serviva stare ancora alzati a patire? Jan, durante il pomeriggio, si era più volte avvicinato alla finestra a guardar fuori, attraverso un quadratino che era rimasto trasparente, mentre per il resto tutti i vetri erano coperti di spessi ghiaccioli. Vi si accostò ancora una volta. «Tu puoi pure andare a letto, mia cara Katrina», disse guardando fuori. «Ma io devo stare su ancora un po'». «Me l'immaginavo», disse Katrina. «Che cos'hai da fare? Che cos'è che ti impedisce di coricarti con me?» Jan non rispose direttamente alla domanda. «È strano. Non ho ancora visto passare Agrippa Pratsberg», disse. «È lui che aspetti?» chiese Katrina. «Non è che si sia comportato con te in modo tale che tu debba stare in piedi a gelare per lui». Jan fece un segno con la mano. Era il solo gesto adottato durante il periodo imperiale che non avesse del tutto abbandonato. Non che Plasberg dovesse far loro visita, ma Jan aveva sentito dire che era invitato a cena da uno dei vecchi pescatori della Sacrear, e si meravigliava di non averlo ancora veduto passare. «Sarà stato abbastanza furbo da rimanere a casa», commentò Katrin. Faceva sempre più freddo, man mano che le ore passavano. Le connessure scricchiolavano, come se il gelo volesse bussare per chiedere il permesso di entrare. I cespugli e gli alberi erano tutti coperti di così spessi manti di neve e brina da sembrare informi. Erano anch'essi costretti, come gli altri esseri, a mettersi addosso tutto quello che capitava per avere una difesa contro il gelo. Dopo un po' Katrina tornò alla carica. «Vedo bene che non sono più delle 5:30», disse. «Ma ad ogni modo metto sulla pentola della farinata e preparo la cena. Poi dopo potrai coricarti o star alzato e aspettare Plasberg, come ti pare». Jan per tutto quel tempo non si era mosso dalla finestra. «Mi sembra proprio impossibile che sia potuto passare senza che io l'abbia visto», disse. «Ma cosa ti importa se un simile individuo passa o non passa?» disse Katrina con voce tagliente, perché si era anche un po' stancata di sentir parlare di quel vecchio vagabondo. Jan trasse un profondo sospiro. Così dicendo, Katrina aveva più ragione di quel che lei stessa sapesse. A Jan non importava affatto che passasse o no il vecchio Greppa. Non era che un pretesto per stare alla finestra quell'idea che doveva aspettarlo. Nessun segnale, nessun messaggio gli era giunto dalla grande imperatrice, dalla ragazzina di Scrolica, da quel giorno in cui Lars di Falla gli aveva tolto il potere e la magnificenza. Sapeva che non era potuto avvenire senza la sua autorizzazione, e capiva quindi che lui, Jan, aveva fatto qualcosa che non le era piaciuto, ma che cosa non riusciva a indovinarlo. Su questo meditava nelle lunghe sere d'inverno, nelle lunghe e buie mattine in cui stava a trebbiare sull'aia, oppure nelle brevi ore di luce in cui trasportava la legna dalla foresta grande. Non poteva credere che Clara Gulla se la fosse presa a male per il fatto dell'impero. Era andato tutto così bene e felicemente per 3 mesi interi. Era stato un periodo quale lui, pover uomo, mai si sarebbe sognato di vivere. ma non poteva certo di essere a questo che Clara Gull era contraria. No, doveva aver fatto o detto qualcosa che l'aveva delusa. Per questo la punizione l'aveva colpito. Ma poteva forse l'imperatrice serbargli tanto rancore da non perdonarlo mai? Se soltanto gli avesse fatto sapere per quale motivo era arrivata. Qualunque cosa potesse fare per farsi perdonare, l'avrebbe accettata senza un lamento. Poteva ben vedere lei stessa che aveva rimesso i vestiti da lavoro ed era ritornata alla fatica giornaliera appena gli aveva fatto sapere che questa era la sua volontà. Non voleva parlare né con Katrina né con il vecchio Ola di quel che provava. Doveva essere paziente e aspettare. Aspettare fino a che non giungesse un segno sicuro da Clara Gull. Molte volte l'aveva sentito così vicino che bastava stendere la mano per raggiungerlo. Proprio quel giorno che era rimasto chiuso in casa, aveva sentito dentro di sé con assoluta certezza che si avvicinavano notizie di Clara Gull. Ed erano queste che stava a spiare attraverso il quadratino trasparente del vetro. Sentiva che se non fossero arrivate presto, non gli sarebbe stato più possibile sopportare di vivere. Ora, ad ogni modo, si era fatto così buio che poteva appena vedere fino al cancello. E dunque, ogni speranza era finita per quel giorno. Katrina preparò la farinata, il pasto serale fu consumato, e prima che fossero le 6:15 erano già andati a riposare. Si addormentarono anche, ma il sonno non durò molto. Il grande orologio dalle Carliano era appena arrivato alle 6:30 che Jan saltò giù dal letto. Si affrettò a mettere nuova legna sul fuoco che non era del tutto spento e incominciò a vestirsi. Cercò di fare il più silenziosamente possibile, ma non poteva evitare di svegliare Katrina, che balzò a sedere sul letto chiedendo se era già mattino. No, non lo era davvero. Ma la ragazzina l'aveva chiamata in sogno, ordinandogli di andare su nel bosco. Ora toccò a Katrina sospirare. Era proprio la pazzia che era ritornata. Se l'era aspettata ogni giorno negli ultimi tempi, vedendo Jan così abbattuto e irrequieto. Non fece nessun tentativo per convincerlo a rimanere a casa, ma si alzò e si vestì anche lei. «Aspetta un momento», disse quando Jan era già sulla porta pronta ad uscire. «Se devi andare nel bosco stanotte, voglio venire con te». Si aspettava che Jan facesse obiezioni, ma non fu così. Rimase invece lì, presso la porta, ad aspettare che fosse pronta. Sembrava che avesse molta fretta, ma al tempo stesso era più calmo e più sensato che non durante tutto il giorno. Ma era proprio una sera da uscire, quella. Il gelo si ergeva contro di loro come un muro di schegge di vetro taglianti a puntite. Pungeva la pelle, sembrava voler strappare il naso dal viso, le estremità delle mani bruciavano e le dita dei piedi parevano quasi mozzate di colpo. Non ci si accorgeva di averle più. Ma Jan non emise un lamento, e Katrina neppure. Si limitavano a camminare. Jan prese per il sentiero d'inverno su per la montagna, quello stesso sentiero che avevano percorso con Clara Gull un mattino di Natale, quando era ancora così piccola che bisognava portarla in braccio. Il cielo era limpido. Un bianco sottile spicchio di luna brillava a ponente e non c'era affatto buio. Tuttavia non era facile seguire la strada in mezzo a tutto quel bianco. Di tratto in tratto si trovavano troppo oltre il margine e affondavano nella neve. Arrancarono ad ogni modo fino alla grossa pietra che un tempo un gigante aveva scagliato contro la chiesa di Svarzio. Jan l'aveva già oltrepassata quando Katrina, che gli era dietro, lanciò un grido. «Jan!» urlò. E Jan non l'aveva mai sentita così spaventata dal giorno in cui Lars era andata a toglier loro la casetta. «Non vedi che qui sta seduto qualcuno?» Jan si volse e la raggiunse, e poco mancò che se la dessero tutte e due a gambe, perché davvero, appoggiato contro la pietra e quasi ricoperto di brina bianca, c'era seduto un grosso vecchio troll, dalla barba ispida e il naso come una proboscide. Era assolutamente immobile, e non si poteva non pensare che fosse rimasto talmente sfiderato dal gelo da non essere riuscito a tornare nella sua caverna o dove altro abitasse. «E pensare che ne esistono ancora di questi!» esclamò Katrina. «Non ci avevo mai voluto credere, per quanto ne avessi sentito parlare!» Chi però si riebbe per primo, accorgendosi di che cosa si trattasse, non fu Katrina, ma Jan. «Non è un troll, Katrina», disse. «È Agrippa Prasberg». caro mio, che dici? Esclamò Katrina. È vero che ha un tale aspetto che è facile sbagliarsi. Si deve essere seduto qui e si è addormentato. Non sarà mica morto. Gridarono il suo nome scuotendolo, ma il vecchio continuava a star lì, rigido, immobile. Corri a prendere la slitta che lo trasportiamo a casa, disse Jan. Io resto qui a strofinarlo con la neve finché non si sveglia. Purché non muoia congelato anche tu, obiettò Katrina. Mia cara Katrina, rispose allora Jan, non ho mai avuto così caldo come stasera da un bel po' di tempo. Sono tanto felice per la ragazzina. Non è stato bello da parte sua su una macchia da salvare la vita di Tangira a spargere tante menzogne sul suo conto. Qualche settimana dopo, proprio mentre Jan stava tornando dal lavoro, Agrippa Prasberg gli si fece incontro. Eccomi di nuovo, vivo e vegeto, disse Greppa. Certo che se tu e Katrina non fosse venuti in mio soccorso, non ci sarebbe rimasto molto di John Utter Agrippa Prasberg a quest'ora. Ho riflettuto a lungo su come avrei potuto ricambiarvi. Non c'è neanche da pensarci, mio caro Agrippa Prasberg, disse Jan con un gesto della mano. Tacete e ascoltate, fece Prasberg. Quando dico che ho pensato di contraccambiarvi, non sono chiacchiere. Ne ho veramente l'intenzione. E ho già provveduto. Ho incontrato l'altro giorno quel commerciante che diede alla vostra ragazza il vestito rosso. Chi? Chiese Jan, così scosso che incominciò ad ansimare. Quell'uomo, quello che aveva dato alla ragazza il vestito rosso e poi l'aveva spinta a finir male a Stoccolma. Per prima cosa, gli ho dato tante botte per conto vostro, ma quante ne ha potute sopportare? E poi gli ho detto che la prossima volta che si farà vedere da queste parti ne avrà altrettante. Jan non voleva credere di aver sentito bene. Ma che ha detto? No, non gli avete chiesto di Clara Gulla? Non portava i saluti? Che doveva dire? Si è preso la scarica ed è stato tiso. Ora vi ho reso un servizio, e siamo pari. Johann Utter Agrippa Prasberg non vuole avere debiti. E su quello si rimise in marcia, lasciando Jan lì, sulla strada, a gemere dalla disperazione. La ragazzina, aveva sicuramente voluto mandargli un messaggio. Quel commerciante doveva di certo portargli i saluti da parte sua, e ora Jan non poteva sapere nulla, l'uomo era stato cacciato via. Jan si torceva le mani, non piangeva, ma sentiva spasmi in tutto il corpo, peggio che se fosse malato. Ora capiva, l'intenzione di Clara Gulla era che Prasper, che era sempre in giro sulle strade, ricevesse un messaggio dal commerciante e lo portasse a sua volta a Jan. Ma con Prasberg era come con i troll, che vogliono aiutare o nuocere non fanno che causare sventure. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it